infatti i miei venivano dalla campagna, appunto, da casa in campagna con i bagni fuori tutto e quant'altro. Qua invece, anche seppur piccola, comunque avevano tutte le comodità, perché sopra c'erano le camere e i bagni. Cioè il bagno, le camere e il bagno. Sì, certo. I suoi erano contadini? Facevano mezzanze, non so come ero. No, artigiani? Mio nonno, sì, erano contadini. Poi mio padre è stato partigiano, quindi mia madre anche. Quindi finita la guerra, dopo si sono sposati, però mio padre ha cercato, insomma, di fare altri lavori. È stato uno, quello che raccontava mia madre, uno dei fondatori delle cooperative a Modena,